Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Notizia di poco fa, firmato il mandato d'arresto europeo contro il presidente catalano Puigdemont e i quattro ministri che lo accompagnano a Bruxelles. Accolta la richiesta della Procura Nazionale che accusa Puigdemont e gli ex ministri catalani di ribellione, sedizione, malversazione e disobbedienza. Il presidente Mattarella ha firmato la nuova legge elettorale approvata in via definitiva in Senato la settimana scorsa. Il Rosatellum ora è dunque legge. Ultime ore di campagna elettorale per la Sicilia, casaleggio dei 5 Stelle. Non sarà difficile governare anche senza alleanze, dice, e dopo il patto dell'arancino nel centrodestra Salvini frena. Ottimista, dice Berlusconi, che dà l'accordo per fatto. Renzi torna ad attaccare le banche, chi ha sbagliato paghi, non è populismo, è giustizia. Sono certo che i lavori di questa commissione d'inchiesta saranno molto utili. Il nostro PD non ha scheletri nell'armadio, dice ancora il segretario del PD. Siamo talmente liberi che vogliamo la verità, solo la verità. Ancora morti nel Mediterraneo, affonda un gommone partito dalla Libia diretto in Italia, vengono recuperati i corpi di 23 migranti, 64 le persone tratte in salvo. La bimba di 6 anni morta ieri sera per meningite all'ospedale di Bergamo. 75 persone sono state sottoposte a profilassi a Rozzano, nel Milanese. Stamattina alcuni genitori della scuola frequentata dalla bambina hanno tenuto i figli a casa. Non c'è alcuna epidemia, chiarisce ai microfoni di Effetto Notte l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. Arrestati a Roma due giovani rom di 20 e 21 anni. Avrebbero violentato un mese fa due ragazzine di 14 anni adescate attraverso i social network. A rivolgersi ai carabinieri i genitori di una delle vittime. Da oggi disponibile in 55 paesi l'iPhone X. Tim Cook a sorpresa accoglie i primi clienti nel negozio Apple di Palo Alto. Sarà un weekend di pioggia, soprattutto domenica, pioggia tanto attesa in un'Italia in grande difficoltà per siccità e smog nelle città, ma si temono anche disagi. Queste dunque le notizie principali di cui parleremo in Effetto Notte questa sera, ancora in compagnia di Maria Piera Ceci, tranquilli, da lunedì torna Roberta Giordano e riprendiamo proprio con la notizia con cui abbiamo aperto anche i titoli, perché l'avete sentito, la giudice spagnola Carmen Lamela ha firmato il mandato di arresto europeo contro il presidente catalano Puigdemont e quattro ministri che lo accompagnano a Bruxelles. Qui in compagnia con noi Sergio Nava, che in questi giorni ci sta raccontando questa crisi catalana, e gli chiediamo che conseguenze può generare questa decisione. Sergio. La giudice spagnola Carmen Lamela ha emesso un mandato di cattura internazionale per l'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont e i quattro ministri deposti del governo catalano che ancora si trovano in Belgio. È stata dunque accolta la richiesta della Procura Nazionale che li accusa di ribellione, sedizione, malversazione e disobbedienza. L'ufficio del procuratore generale belga ha fatto sapere di aver già ricevuto i documenti, saranno esaminati nelle prossime ore. È comunque prevedibile che, qualora l'avvocato del presidente catalano destituito non riuscisse ad evitare l'estradizione, questa avverrà non prima di due mesi, quindi ad elezioni autonomiche, quelle del 21 dicembre già avvenute. Elezioni nelle quali lo stesso Puigdemont ha detto di essere pronto a ricandidarsi anche dall'estero, lo ha dichiarato in un'intervista alla TV pubblica belga RTBF. E in un messaggio su Twitter Puigdemont ha denunciato maltrattamenti subiti da membri del suo governo arrestati nel corso del trasferimento in prigione. Infine, decine di migliaia di persone sono scese in piazza anche nelle ultime ore gridando libertà in tutte le città catalane per denunciare l'arresto degli otto ministri ed esigerne la liberazione immediata di quelli che definiscono detenuti politici. Le due organizzazioni della società civile, ANC e Omnium, hanno convocato una grande manifestazione a Barcellona per l'11 di novembre. È tutto. Grazie a Sergio Nava per questo punto. Il presidente Mattarella firma la legge elettorale, così il Rosatellum diventa legge. Ultime battute intanto di campagna elettorale in vista del voto di domenica in Sicilia, un voto che avrà valenza anche nazionale. Alle prossime elezioni politiche si voterà con il Rosatellum. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella firma la legge che non presenta profili di incostituzionalità, un terzo di maggioritario, due terzi di proporzionale e una legislatura che volge al termine, probabilmente appena approvata la legge di bilancio. Intanto si guarda sempre di più alla Sicilia come test per alleanze in vista delle politiche. politiche. Per il Movimento 5 Stelle parla Davide Casaleggio, che esprime rammarico per la firma del Capo dello Stato e promette che la partita si sposta alla Consulta. Sulla Sicilia Casaleggio pensa che non sarà difficile governare senza alleanze. Nel centrodestra tiene banco il patto dell'arancino tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, siglato a Catania. Il leader della Lega parla di intesa di principio, ma bisogna mettere sulla carta i numeri. Distinguo però su Berlusconi, per cui l'accordo è già sottoscritto. Salvini invece giudica questa versione ottimista. Bisognerà comunque aspettare lunedì dopo il voto in Sicilia. Quattro i candidati: Musumeci centrodestra, Cancelleri Movimento 5 Stelle, Micari PD AP, Fava sinistra. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ritroveremo Elisabetta Fiorito nella seconda parte di Effetto Notte per tirare le somme di questa campagna elettorale. Test significativo, dice il segretario del PD, che torna all'attacco sulle banche. Il voto di domenica in Sicilia è importante per il futuro dell'isola, vinca il migliore. Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi interviene così nell'ultimo giorno di campagna elettorale per le regionali siciliane e rilancia il candidato che lui considera il migliore, Fabrizio Micari. Un candidato, ricorda Renzi, indicato al centro-sinistra dal sindaco Orlando sulla base del modello Palermo, un'alleanza, sottolinea, che andasse oltre il PD. Matteo Renzi poi torna sullo spinoso capitolo delle crisi bancarie dopo l'audizione di ieri del responsabile della vigilanza di Banca Italia, Carmelo Barbagallo, davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche. Il PD, scrive Renzi su Facebook, non ha scheletri nell'armadio. Manager e banchieri che hanno sbagliato paghino. Non è populismo, è giustizia. Sono certo, aggiunge, che i lavori della commissione d'inchiesta saranno molto utili. E giovedì, proprio la commissione parlamentare d'inchiesta ha convocato in audizione congiunta il responsabile della vigilanza bancaria di Banca Italia, Carmelo Barbagallo, e il direttore generale della Consob, Angelo Apponi, per approfondire i rapporti tra le due istituzioni in merito alla crisi delle banche venete. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I corpi di 23 migranti sono stati recuperati nel Mediterraneo, dove è affondato un gommone diretto verso l'Italia. Sono state tratte in salvo 64 persone finite in acqua e il gommone era partito dalla Libia. Ancora un episodio di violenza vicino a Roma, due quattordicenni violentate in un bosco. Violentati in un boschetto della periferia romana dopo aver accettato di incontrare un ragazzo conosciuto in una chat online. Le vittime sono due quattordicenni, i violentatori due ragazzi di 20 e 21 anni, ora in carcere con l'accusa di violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona. Tutto è avvenuto nel maggio scorso, le due ragazze però non lo avevano raccontato a nessuno, ma i genitori di una delle due hanno scoperto tutto e si sono rivolti ai carabinieri, facendo partire le indagini. I racconti delle due ragazze coincidono, l'adescamento su internet dopo una corrispondenza virtuale e l'appuntamento in un luogo appartato. Poi lo stupro. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 21enne le avrebbe minacciate di morte, costringendole così a farsi legare. Poi avrebbe abusato di entrambe, mentre l'altro faceva da palo. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Roma, hanno portato all'identificazione e all'arresto dei due giovani di origine bosniaca residenti in un campo nomadi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Veniamo al caso della bimba di 6 anni morta ieri sera per meningite all'ospedale di Bergamo. La bambina viveva e frequentava la prima elementare a Rozzano, alle porte di Milano, ma si trovava in vacanza in Val Seriana. Stamattina alcuni genitori della scuola frequentata dalla bimba hanno tenuto i figli a casa. 75 persone sono state sottoposte a profilassi. La sindaca di Rozzano, Barbara Agogliati, in un messaggio video rassicura i suoi cittadini. La scuola rimane aperta. I protocolli sanitari sono stati attivati, è giusto avere l'attenzione in merito a questi casi, che sono casi molto gravi, però non vogliamo creare allarmismo e vogliamo rassicurare le persone e soprattutto dare le informazioni su quello che è necessario fare. Tra poco torneremo su questo tema con l'assessore alla sanità lombarda Gallera e noi restiamo in qualche modo in tema di scuola, perché sono 60.000 i docenti che si sono spostati dal sud al centro-nord, mentre 8.000 sono poi tornati a casa al sud. Lo rivela uno studio del CNR, il primo sul fenomeno migratorio relativo ai docenti. A guardare più da vicino i dati si scopre che i professori di ruolo si spostano soprattutto da Roma verso Napoli, mentre i precari seguono la rotta inversa. A muoversi sono soprattutto le donne, si spostano soprattutto da Basilicata, Sicilia e Campania, mentre le regioni più attrattive sono Toscana, Piemonte e Lazio. Restiamo in tema e parliamo di inclusione scolastica. L'Italia ha una normativa molto avanzata in tal senso, ma ora vanno affrontate nuove sfide. Una 3 giorni a Rimini per parlarne, organizzata da Ericsson, come spiega Dario Ianes fra i promotori del convegno. Ma le nuove sfide sono quelle di occuparsi non solo degli alunni con disabilità o con disturbo dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, ma quella di occuparsi veramente di tutti gli alunni con tutte le loro differenze. L'inclusione piena è quella che risponde, ottimizza il potenziale di ogni alunno, senza creargli barriere, senza creargli difficoltà all'apprendimento e alla partecipazione sociale. Ecco, questa è l'evoluzione naturale di una scuola italiana che ha fatto dell'integrazione degli alunni con disabilità una sua bandiera già da 40 anni, ma che adesso deve affrontare la sfida dell'inclusione e delle nuove differenze. Per esempio le differenze degli alunni che vengono con un background migratorio, che vengono da altri paesi, altre culture, con lingue diverse. Stamattina è stato detto che sono i nuovi ragazzi della scuola di Barbiana, no? Ma il tempo in questo weekend, domenica arriva un'ondata di freddo e pioggia che investirà l'Italia da nord a sud. Già domani si manifesteranno i primi segnali di un cambiamento che risulterà invece radicale domenica e lunedì, quando poi la perturbazione si sposterà al centro-sud. Ci torneremo anche su questo in finale di trasmissione, sentiremo più in dettaglio le previsioni meteo. Ora ci fermiamo per ascoltare quello che sta succedendo sulle strade, poi torniamo insieme per parlare di elezioni in Sicilia. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Firmato il mandato di arresto europeo contro il presidente catalano Puigdemont e i 4 ministri che lo accompagnano a Bruxelles. Accolta la richiesta della Procura nazionale che accusa Puigdemont e gli ex ministri catalani di ribellione, sedizione, malversazione e disobbedienza. Il presidente Mattarella ha firmato la nuova legge elettorale approvata in via definitiva al Senato la settimana scorsa. Il Rosatellum ora è dunque legge. Ultime ore di campagna elettorale per la Sicilia. Casaleggio dei 5 Stelle dice: non sarà difficile governare anche senza alleanze. Dopo il patto dell'arancino nel centrodestra, Salvini frena. Ottimista, dice Berlusconi, che dà l'accordo per fatto. Renzi torna ad attaccare le banche, chi ha sbagliato paghi, non è populismo, è giustizia. Sono certo che i lavori di questa commissione d'inchiesta saranno molto utili. Ancora morti nel Mediterraneo, affonda un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia, vengono recuperati i corpi di 23 migranti, 64 le persone tratte in salvo. Arrestati a Roma 2 giovani rom di 20 e 21 anni, avrebbero violentato un mese fa 2 ragazzine di 14 anni adescate attraverso i social network a rivolgersi ai carabinieri, genitori di una delle vittime. Si aggrava la posizione di Kevin Spacey, ora ad accusare l'attore anche un ex assistente di produzione di House of Cards. Le molestie sessuali sulle donne non devono mai essere tollerate, dice Ivanka Trump, la figlia del presidente americano e sua consigliera. Allora, secondo blocco di Effetto Notte, a questo punto parliamo dell'ultima giornata di campagna elettorale in vista del voto di domenica in Sicilia e lo facciamo ancora una volta con Nino Amadore, corrispondente da Palermo del Sole 24 Ore. Buonasera Nino. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, e anche con Elisabetta Fiorito che è la nostra cronista politica. Buongiorno, buonasera Elisabetta. Buonasera. Allora Nino, ultima giornata, quindi ci sono state le ultime dichiarazioni, ne sentiamo qualcuna insieme così poi le possiamo commentare. Cominciamo dalle parole di Musumeci. Privilegiare l'impresa, che è l'unica fonte di ricchezza su un territorio. L'impresa, non il denaro pubblico, non la pubblica amministrazione, che è stato soltanto un ammortizzatore sociale per decenni e decenni. Questo dunque le parole di Musumeci del centrodestra, che punta molto sul concetto di impresa. Sentiamo invece le parole di Micari del centrosinistra. Ci sono degli importanti segnali che bisogna anche registrare, cioè di un prodotto interno lordo siciliano che negli ultimi 2-3 anni è comunque cresciuto, di un turismo che è cresciuto in doppia cifra, anche lì parecchio negli ultimi anni, di un bilancio finalmente sano, di tante risorse che sono a disposizione sia nazionali che europee. Quindi io credo che ci sono le condizioni per poter finalmente decollare. Ottimista dunque il centrosinistra. Allora sentiamo anche le parole di Cancelleri del Movimento 5 Stelle. I cittadini hanno ben presente che il 5 non si vota per eleggere il Presidente della Regione, ma si vota un referendum. Il passato che torna, inequivocabilmente con tanto di sigla di partito e Forza Italia dopo 20 anni, e invece il futuro che oggi si sta palesando con questa intelligenza collettiva che è il governo dei cittadini, che vuole finalmente riprendersi questa regione. Nino, hai sentito dunque queste tre dichiarazioni per Cancelleri, il rischio di un passato che ritorni, come si è, ormai siamo alle ultime battute, insomma bisogna tirare le fila di questa campagna elettorale. Vabbè, certamente bisogna dire, basta insomma pensare al comizio di Berlusconi di ieri, che quella classe politica c'è, si ripresenta, in molti erano col centrosinistra e sono andati con la destra pur di riavere quel seggio benedetto all'ARS, benedetto perché insomma rende anche parecchio, e quindi c'è una classe politica che c'è. Poi alla fine quello che conta è la ricetta, come tirar fuori la Sicilia dalle secche, perché è pur vero che il PIL è cresciuto anche grazie, diciamo, a un'accelerazione della spesa dei fondi europei, è anche vero che il turismo è cresciuto, però il turismo siciliano ha, diciamo, parecchi limiti, perché non è strutturale, non è un turismo che cresce, si struttura e rimane stabile, ha bisogno di diventare impresa, industria, ha bisogno di sistemi, e quindi la necessità di governare anche i processi che in questo momento appaiono molto casuali, molto fortuiti. Come sappiamo, le crisi del Nord Africa hanno sicuramente favorito la Sicilia, ma la Sicilia ha bisogno di organizzarsi e di creare un'offerta, se parliamo di turismo. Nino, ormai siamo a un giorno e mezzo dal voto. Secondo te, anche dalle sensazioni che hai avuto parlando con la gente, eccetera, il tanto temuto astensionismo alla fine prevarrà? Oppure negli ultimi giorni di campagna elettorale hai avuto la sensazione che qualcosa stia cambiando? Ma guarda, io la sensazione che io è una sensazione, io raccolgo stanchezza, cioè da parte soprattutto come possiamo dire delle classi produttive, da parte dei piccoli imprenditori, dei piccoli professionisti, cioè tanta difficoltà anche a in alcuni casi a far sopravvivere le aziende, difficoltà legate a una macchina pubblica difficile, complicata, che spesso è un freno, difficoltà legata anche a processi di riorganizzazione dei territori in questa terra che sono lenti, sono faticosi, spesso diciamo, si cammina non guardando avanti, no? È come se guidassi una macchina guardando lo specchietto e non guardando avanti, e allora in molti casi c'è l'indecisione tra l'andare a votare rompendo completamente col passato, oppure non andarci completamente perché magari non si è soddisfatti dell'offerta politica in questo momento. Questa è, secondo me, Musumeci, con la parte che avete fatto sentire prima, ha capito che c'è un certo tipo di malessere, e quello vuole essere senza dubbio un messaggio a questa fascia, perché quando si parla di Sicilia ci si immagina la Sicilia come un posto dove la gente al mattino si alza, se ne va al mare e prende il sole, invece in questa terra c'è parecchia gente che ogni giorno fa il doppio della fatica per far sopravvivere la propria azienda. Nino, allora in bocca al lupo alla tua terra per queste elezioni, chiunque vinca che sappia gestirla questa regione. Grazie mille, ci sentiremo naturalmente domenica per cominciare a seguire un po' il voto, poi lunedì i risultati. Grazie Nino, ti lasciamo alla tua cena. Grazie, arrivederci, ciao. Elisabetta Fiorito, buonasera, sei ancora lì con noi. Allora, oggi si sono incontrati nel centro di Palermo il leader di MDP Bersani e gli esponenti del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. Si sono incontrati per le vie di Palermo, a quel punto stretta di mano, pacche sulle spalle. Insomma, comunque il centrodestra, possiamo dire, e anche il Movimento 5 Stelle ha cavalcato molto questa competizione elettorale, mentre il centro-sinistra si è un po' tenuto in disparte. Pensiamo anche a Renzi, insomma, che sostanzialmente non ha parlato in questa campagna elettorale. Così, Elisabetta? Beh, no, lui oggi ha riparlato nella news, per esempio Renzi ha detto bisogna votare Micari, il miglior candidato della regione Sicilia. Ovviamente Micari, ricordiamo ai radioascoltatori, è il candidato del PD, del movimento di AP. Allora, la cosa fondamentale è questa: bisogna capire che cosa succede a livello politico. Tutte le chiacchiere che noi stiamo facendo possono autodistruggersi la mattina dopo del voto, questo va detto. Però il problema è uno: Sergio Mattarella ha firmato la legge elettorale, la legislatura sta finendo, c'è l'ultimo atto che è la legge di bilancio. Forse il PD potrebbe tentare l'affondo sul Ius Soli per ricompattare appunto il Bersani che dà la stretta di mano a Di Battista, e quindi per ricompattare il centrosinistra, però non è ancora chiaro, lì bisogna contare i numeri al Senato, perché è chiaro che AP non voterebbe lo Ius Soli, che poi lo ricordiamo non è un vero e proprio Ius Soli. Certo. Quindi insomma la legislatura va a finire. E quindi si guarda a questa competizione elettorale, sì, anche per dare uno sguardo a quello che può succedere dopo. Ascoltiamo per un istante le voci di oggi del famoso patto dell'arancino, post patto dell'arancino. Cominciamo da Berlusconi. Ripeto, anche a coloro che avevano deciso per un disgusto comprensibilissimo di non andare a votare, sono tutti moderati, che questa volta è assoluto loro interesse di andare a votare per dare alla Sicilia un governo che possa basarsi su una ampia maggioranza, altrimenti il governo che il centrodestra potrà esprimere dovrà ricorrere a delle alleanze, ad esempio con la sinistra. Questo dunque Berlusconi. Sentiamo invece le parole di Salvini e poi di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Senza l'arancino, il patto dell'arancino col pesce invece dell'arancino. No, abbiamo parlato, e parlare è sempre utile, abbiamo parlato di cose da fare, non di posti da spartire come ho letto sui giornali, quindi ho chiesto un incontro non a tavola, senza arancini, ma con la penna e col foglio di carta per mettere nero su bianco che idea abbiamo d'Italia, a che età la gente va in pensione, con quale pensione, qual è la riforma della scuola, qual è la riforma del lavoro, e quindi una cena utile sicuramente. Ma sicuramente è stato un primo incontro necessario per costruire quella che è la proposta di Fratelli d'Italia, deve essere una coalizione di patrioti. Sono contenta che sia accaduto in Sicilia, perché speriamo di poter vincere con Nello Musumeci, crediamo che vincerà Nello Musumeci, e sarà un bel segnale anche per la ricostruzione di quest'area di centrodestra. Quindi insomma Berlusconi ottimista, dice Matteo Salvini, forse troppo ottimista, perché poi dopo, diciamo, l'accordo, il patto dell'arancino a tavola, bisogna cominciarla a scrivere questo programma tutti insieme. Tu ci credi che riusciranno a compattarsi dopo il voto siciliano? Ma sicuramente loro si compatteranno per le elezioni politiche, poi bisogna vedere che cosa succederà all'indomani delle elezioni politiche. Nel centrodestra la sfida è chiara tra Forza Italia e Lega, ovviamente Fratelli d'Italia non può competere con i numeri. Matteo Salvini l'ha detto chiaro e tondo: chi vince tra di noi nella coalizione è quello che guiderà la coalizione. Allora bisogna lì capire se l'asse del nord, ovvero Salvini, ha i numeri per poter dominare anche il sud, che generalmente è quello che risponde di più a Berlusconi o comunque a Forza Italia. Lì bisogna capire all'indomani delle elezioni chi comanda nella coalizione di centrodestra. Ma questa cosa si protrae anche nel centro-sinistra, nel Movimento 5 Stelle. Cioè, questa legge elettorale fa sì che poi le coalizioni in pratica si faranno all'indomani del voto. E oggi il ministro della giustizia Andrea Orlando, minoranza nel Partito Democratico, ha detto: poi dopo il voto in Sicilia parliamo di leadership e di coalizioni, e non c'è nessun patto con Berlusconi. Quindi è tutto molto mobile. Molto Davide mobile. Casaleggio, certo, dice: noi in Sicilia governeremo senza alleanze, come dire, ce la faremo anche col governo nazionale, cosa che è molto improbabile perché purtroppo c'è un voto di fiducia nel governo nazionale, quindi ci sono dei meccanismi. Quindi aspettiamo questo voto siciliano, che sicuramente è un voto importantissimo a cui guardano tutte capire, le maggiori forze politiche. Grazie. E per capire le alleanze e le future coalizioni nelle prossime elezioni politiche. Grazie, grazie ad Elisabetta Fiorito, la nostra cronista politica. E lasciamo per un istante la Sicilia, perché domenica si vota anche ad Ostia, l'abbiamo raccontato in questi giorni. Un comune, quello di Ostia, sciolto per mafia 2 anni fa, e commissariato. Con chi ne parliamo? Ne parliamo con una giornalista che conosce molto bene questo territorio, Federica Angeli, giornalista della Repubblica. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Federica Angeli non è una giornalista qualunque, perché vive sotto scorta dal 2013, correggimi se sbaglio. Giusto, giusto. A causa delle minacce di morte ricevute proprio mentre raccoglievi informazione, mentre lavoravi per Repubblica, sì, sul racket degli stabilimenti balneari ad Ostia, così? Esatto, sì, sì. Poi sei stata anche testimone oculare in un agguato fra clan rivali sempre sul litorale. Sì, 20 giorni dopo aver concluso l'inchiesta sono stata testimone oculare di questa sparatoria, tentato duplice omicidio. Sì. E da allora vivi sotto scorta, quindi insomma, stai facendo il tuo lavoro davvero, complimenti, insomma, non dietro una scrivania, ma ti ci sei sporcata le mani. Allora, hai seguito questa campagna elettorale ad Ostia? Come no, sì, ecco, sì, l'ho seguita, anche se non mi occupo di politica, ma non potevo naturalmente, non potevi, dopo non due occupartene. Anni di commissariamento per mafia, non potevo non e da cittadina poi di Ostia, perché io ho deciso di rimanere a vivere lì, malgrado le minacce di morte, e non potevo non seguirla. Che dirti? Io ho sentito oggi il dibattito che c'è stato sul Messaggero fra i vari candidati, ovviamente molti puntano sulla legalità ed è ovvio che questo accada. Sì. Ecco, raccontaci questa campagna elettorale. Lo fanno in una maniera, secondo me, vanno molto in punta di piedi. Mi sarebbe piaciuto un attacco con nomi e cognomi, tanto per dire. E invece, siccome in molti pescheranno in quell'elettorato ancora, dato anche l'endorsement pubblico, per esempio per l'estrema destra, per Casa Pound, di uno dei membri della famiglia Spada, Roberto Spada, su Facebook, vedremo, sarà una bella scommessa capire se gli abitanti di Ostia hanno finalmente capito che cosa ha significato quel commissariamento per mafia. Federica, oppure... di Spada, sì, ha parlato oggi anche la sindaca Raggi, proprio parlando del voto ad Ostia. Sentiamola insieme. Quindi Spada forse per troppi anni l'hanno fatta da padrone, e mi sembra che hanno appena dichiarato il loro sostegno a Casa Pound. E la destra ha detto che comunque eventualmente è interessata a un'alleanza con Casa Pound. Quindi con chi si allea la destra? Con quelli come loro. Con gli Spada? Ecco, sentite le parole della Raggi? Sì, sì. Diciamo che Spada poi fino a un annetto fa faceva endorsement a Raggi, e Raggi diceva, al 5 Stelle, il 5 Stelle si difendeva dicendo: noi non possiamo impedire naturalmente di farlo, nel senso, mi sembra, sai cosa, mi sembra veramente una farsa, ma non da parte del 5 Stelle, da parte di tutti i candidati. Le cose si fanno concretamente contro la mafia, e io in questi mesi di governo 5 Stelle rispetto al tema Ostia e mafia non ho visto tantissimo, però questa, come dire, questa mossa forte nei confronti di tutti i poteri che hanno contribuito, intrecciandosi ovviamente con la malavita, a garantire la sopravvivenza di questi clan, non ho sentito veramente nulla, nel senso, di concreto. Allora farò così, allora gli Spada avranno vita breve perché controlleremo tutte le loro attività commerciali. Mi sembra molto fumoso, ma aspettavo più contenuti da parte parte di tutti, onestamente. Quindi mi sembra che sei poco ottimista nei confronti di quello che possa uscire da questo voto. E che cosa ne pensano i tuoi concittadini? Perché appunto ci sono grosse aspettative su questo voto, oppure in realtà in molti la pensano come te, non cambierà forse nulla, o perlomeno dalle parole sentite in campagna elettorale non sembra emergere un impegno forte. Ma guarda, molte persone mi scrivono mail, mi scrivono sui social: ti prego, dici per chi votare, cosa che naturalmente da professionista non bisognerei mai di fare, perché le persone devono scegliere in base a quello che vedono e non certo consigliati o indirizzati, non spetta a noi insomma fare questo. Però effettivamente c'è molto, quello che sento, quello che respiro sarà la vittoria dell'astensionismo. Molte persone hanno gettato la spugna, per cui uno vale l'altro, questo è quello che sento dire, gli umori sono questi, in molti non andranno a votare ed è secondo me un vero peccato, perché si lascia carta bianca a dei candidati che oggettivamente i fatti hanno mostrato con endorsement o con frasi o con ammiccamenti, invitando certi personaggi ai comizi e ai convegni, di essere meno puliti di altri. Grazie, grazie a Federica Angeli, giornalista della Repubblica. Buona serata. Noi ascoltiamo le previsioni del tempo, poi terzo blocco di Effetto Notte, parleremo di meningite. State ascoltando un programma offerto da Birra Antoniana. In ogni birra una storia. Scoprila su birraantoniana.it. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Firmato il mandato d'arresto europeo contro il presidente catalano Puigdemont e quattro ministri che lo accompagnano a Bruxelles. Ultime ore di campagna elettorale per la Sicilia. Casaleggio di 5 Stelle dice: non sarà difficile governare anche senza alleanze. E dopo il patto dell'arancino, nel centrodestra Salvini frena. Ottimista, dice Berlusconi, che dà l'accordo per fatto. Renzi torna ad attaccare le banche. Chi ha sbagliato paghi, non è populismo, è giustizia. Sono certo che i lavori di questa commissione d'inchiesta saranno molto utili. Ancora morti nel Mediterraneo. Affonda un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia. Vengono recuperati i corpi di 23 migranti, 64 le persone tratte in salvo. La polizia di New York ha raccolto abbastanza indizi per arrestare Harvey Weinstein per stupro, lo ha detto il detective Nicholas Di Gaudio, a cui è stata affidata l'inchiesta Weinstein a New York. Arrestati a Roma due giovani rom di 20 e 21 anni, avrebbero violentato un mese fa due ragazzine di 14 anni, adescate attraverso i social network. Veniamo al caso della bimba di 6 anni morta ieri sera per meningite all'ospedale di Bergamo. La bambina viveva e frequentava la prima elementare a Rozzano, alle porte di Milano. Stamattina alcuni genitori della scuola frequentata dalla bimba hanno tenuto i figli a casa. A loro si rivolge l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. L'abbiamo raggiunto qualche ora fa. Che non c'è alcuna epidemia, non c'è una situazione anomala. Quest'anno i casi di contagio di meningite sono stati 30, l'anno scorso nel 2016 sono stati 43, quindi siamo in una gestione assolutamente fisiologica. Peraltro i nostri servizi sono intervenuti con grandissima sollecitudine, noi abbiamo avuto comunicazione nelle prime ore del mattino, alle 8 del mattino, e già intorno alle 11 a scuola c'erano i responsabili della TS per pianificare la profilassi. Profilassi che, ricordiamo, riguarda soltanto le persone che hanno avuto negli ultimi 7 giorni un contatto molto diretto, perché non si trasmette stando nella stessa sala o frequentando nella stessa scuola, ma con il vapore acqueo, oppure scambiandosi le posate o quindi elementi, voglio dire, che prevedono un contatto molto diretto. 75 le persone che sono state sottoposte a profilassi, quelle che sono state in contatto diretto con la bambina, come stavamo giustamente spiegando. Ecco, sappiamo di questo caso che tipo di meningite ha colpito la bambina? No, non stiamo facendo l'investigazione rispetto al ceppo, non abbiamo ancora dati precisi. Sappiamo se fosse vaccinata? Non ci risulta essere stata vaccinata contro la meningite, né C né B. Quindi possiamo approfittare di questa occasione per rinnovare l'invito a vaccinarsi? Assolutamente, intanto diremo che come abbiamo fatto le altre volte offriremo la possibilità di vaccinare tutti i ragazzi e tutti anche gli insegnanti diciamo nelle prossime settimane, quindi anche con un canale preferenziale. E poi ricordiamo come in ogni caso la vaccinazione è molto importante, Regione Lombardia ha attivato anche un servizio diciamo di copagamento, cioè di la possibilità di vaccinarsi ad un costo sociale molto più basso di quello sul mercato e quindi diamo la possibilità veramente a tutti di vaccinarsi. Fatelo perché è veramente importante. La sindaca di Rozzano dice il vaccino per la meningite C è consigliato, quello per la meningite B è a pagamento, questo potrebbe essere un deterrente, si può fare di più in questo senso? Guardi, noi lavoriamo con le risorse che ci vengono trasferite dal governo nazionale. Il nuovo piano per ILEA prevede che la gratuità del meningococco B sia dai nati nel 2017 e quindi noi così stiamo lavorando. Però ricordiamo che acquistare in una farmacia una dose singola di antimeningococco B e farsela inoculare costa tra i 150 e i 200 euro. Con il servizio sanitario nazionale costa 82 euro, ma perché ahimè il vaccino ha un costo molto alto di 72 euro a cui noi aggiungiamo solo 10 euro diciamo, per le attività organizzative, quindi abbiamo già fatto un grosso sforzo da questo punto di vista. Ci fossero dati altri strumenti sicuramente potremmo anche fare offerte diverse. Concludiamo dunque questa chiacchierata invitando queste famiglie lunedì a riportare i loro bambini a scuola. Sì, invitiamo, diciamo che non c'è nessun allarmismo, di stare tranquilli, che siamo intervenuti in maniera assolutamente tempestiva, la profilassi è antibiotico che serve quindi a in qualche modo impedire che qualora ci fosse un'incubazione questa comporta l'esplosione della meningite, lavoreremo su tutti i bambini che ci sono, non ci sono problemi generali, ahimè evidentemente dobbiamo capire che si convive con questa infezione perché è un virus che è una malattia, è un virus e quindi si convive con questo, con le vaccinazioni si riescono a circoscrivere i casi in cui può avvenire e sicuramente non avere degli eventi così infausti come le morti. Grazie, grazie Assessore, buona serata. Grazie a lei, arrivederla. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Firmato il mandato d'arresto europeo contro il presidente catalano Puigdemont e 4 ministri che lo accompagnano a Bruxelles. Ultime ore di campagna elettorale per la Sicilia. Casaleggio del Movimento 5 Stelle dice non sarà difficile governare anche senza alleanze. E dopo il patto dell'arancino nel centrodestra Salvini frena, ottimista dice Berlusconi che dà l'accordo per fatto. Ancora morti nel Mediterraneo, affonda un gommone partito dalla Libia diretto in Italia, vengono recuperati i corpi di 23 migranti, 64 le persone tratte in salvo. La polizia di New York ha raccolto abbastanza indizi per arrestare Harvey Weinstein per stupro, lo ha detto il detective Di Gaudio a cui è stata affidata l'inchiesta Weinstein a New York. E noi ripartiamo proprio da questa notizia arrivata poco fa, la commentiamo in diretta con la nostra Marta Cagnola. Marta! Si mettono male le cose per Harvey Weinstein, Allora, le indiscrezioni non si fermavano, l'ultima era stata Paz de la Huerta che è un'attrice famosa ad esempio per la serie Boardwalk Empire, lei ha raccontato un po' quello che avevano raccontato altre, parla di due violenze, insomma alcune avevano parlato di molestie, di approcci pesanti, invece lei ha proprio raccontato Harvey Weinstein insomma, mi ha stuprata. Sì, questo scandalo non si ferma, anche Kevin Spacey ha nuove accuse, insomma davvero sembra una valanga che si fa sempre più grande. Sì, soprattutto poi questa notizia di questa sera fa un po' la differenza perché tra le donne che lo denunciano così mediaticamente e un'inchiesta della polizia e il fatto che secondo la polizia di New York ci possano essere indizi sufficienti per l'arresto, lo ha detto il detective Nicolas Di Gaudio, ecco, potrebbe essere questo determinante. La differenza. Tra l'altro cominciano a diffondersi anche notizie abbastanza sconcertanti in Italia, perché ha raccontato Miriana Trevisan, ex ragazza tanti anni fa di Non è la Rai, poi protagonista di tante di trasmissioni televisive e aspirante attrice cinematografica, aveva già raccontato qualche tempo fa di approcci molto pesanti da parte di personaggi del cinema, non aveva fatto nomi. Questa sera ha fatto un nome e lei dice che è scappata da Giuseppe Tornatore 20 anni fa. Insomma, lo ha raccontato a Vanity Fair, insomma, questo non ci sono ancora reazioni, però arriveranno sicuramente. Arriveranno sicuramente. Marta, sì, noi ti avevamo chiamato però per sapere un'altra cosa. Alleggeriamo un attimo tutta questa pagina, perché tu stamattina hai visto un film bellissimo, mi hai detto. Come sono contenta, ve l'avevo detto ieri che questa mattina avrei visto Borg McEnroe. Allora, com'è? È un film molto emozionante, teniamo presente che comunque è un film svedese, un regista danese, quindi inevitabilmente è un po' sbilanciato su Borg. È ambientato nel periodo del quinto Wimbledon di Björn Borg, della quinta finale di Wimbledon. Borg ha vinto 4 finali e la quinta potrebbe essere quella che lo fa entrare nella storia. Da lì si vede tutto. La nascita del mito Björn Borg fin dall'infanzia, l'incontro con un uomo completamente diverso da lui che è John McEnroe. Ecco, un po' manca la parte di McEnroe perché è più sbilanciato. È un pochino sbilanciato, però è da vedere, diciamo, ce lo consigli, sì. Ah, da vedere, tra l'altro la buona notizia è che esce la prossima settimana. Per cui da vedere, bello fresco in uscita dalla festa del cinema di Roma. Devo dire che le immagini della finale tengono tutti col fiato sospeso, credo che anche gran se sappiamo come va a finire, esatto, gran parte del pubblico sa come va a finire, non lo diciamo, magari qualcuno non lo sa e vuole andarlo a vedere come se fosse una partita vera, qualche ragazzo magari, certo. si esultava per i punti. Bella, bellissima, non... Quindi insomma si va al cinema come per vedere una partita, un po' si mescolano queste due passioni degli italiani. Grazie. Marta, grazie davvero per averci raccontato questa settimana la festa del cinema di Roma. Buona serata. A presto. Allora, invece ora noi ci colleghiamo con Luca Salvioli del Sole 24 Ore, perché oggi non è solo la giornata del film Borg McEnroe, è anche la giornata dell'uscita, del lancio dell'iPhone X, l'iPhone 10. Luca, come si dice? Allora, ci sono storie di pensiero. Tecnicamente sarebbe iPhone 10, perché Apple con questo modello celebra il decennale del primo iPhone, e quindi sarebbe 10. Però la stessa Apple ha deciso di non scrivere 10 in numero, ma in numero romano, quindi X, e quindi molti lo chiamano iPhone X. Io mi sono imposto di chiamarlo iPhone 10. Ma sono sicuro non ti viene. Vabbè, è così, è un giochino anche questo, un gioco che si aggiunge al gioco che c'è ogni volta che esce un iPhone. Allora, tu l'hai avuto in mano, mi dicevi, qualche tempo fa, non ce l'hai ancora, però insomma hai avuto modo di giocarci un po', come si suol dire. Sì, com'è? Alla presentazione che Apple ha fatto a Cupertino, in California, il 12 settembre, pochi minuti, quindi mi riservo di fare una prova più approfondita settimana prossima, diciamo. Però l'esperienza è stata buona soprattutto per quelle che sono le caratteristiche distintive di questo nuovo iPhone. La caratteristica che più, diciamo, di cui si è parlato di più è il Face ID, cioè il riconoscimento del volto. Per sbloccare il telefono, questo tramite la fotocamera frontale e una serie di sensori piuttosto complessi è in grado di riconoscerci e quindi sbloccarsi, oppure se facciamo un pagamento con Apple Pay come sistema di riconoscimento in modo così sicuro, allo stesso tempo utilizza il volto. E questo tecnologia... ovviamente aumenta la sicurezza. Certo, solleva anche interrogativi, non è la prima azienda che lo implementa, però su altri telefoni della Galaxy Android non aveva molto convinto. La prova che avevo fatto lì a Cupertino mi era sembrata buona perché era stato molto veloce il sistema di riconoscimento, e le recensioni che stanno uscendo in America sembrano dire che effettivamente Apple come suo solito, devo dire, perché in effetti questo un po' la distingue, quando implementa una tecnologia lo fa in maniera semplice e funzionale. E funzionante. Qualche altra novità di questo iPhone 10? In brevissimo proprio. Brevissimo, guarda, cambia rispetto all'utente iPhone, le novità sono notevoli, nel senso che sparisce il tasto home e quindi c'è tutto display, però il tasto home era anche comodo per muoversi tra le applicazioni, eccetera, quindi ci sono una serie di gesti nuovi sul display per muoversi da una pagina all'altra. Lo schermo è OLED, una tecnologia più pulita con dei colori, delle immagini migliori, diciamo così. E oggi Tim Cook al negozio della Apple di Palo Alto ha accolto i primi clienti che hanno voluto comprare la sua nuova creatura. Si è divertito anche lui, Tim Cook, a giocare con i suoi fans. Grazie, certo, poi Luca. Apple personalizza molto, c'è anche molto marketing, ovviamente. Però ripulendo comunque dal marketing, resta il fatto che il nuovo lancio insieme alle notizie finanziarie hanno convinto Wall Street, perché il titolo ha superato il record ieri e quindi anche dal punto di vista finanziario sembrano esserci buone promesse. Chiudo dicendo che c'è solo qualche dubbio sulla produzione, perché non è detto che Apple riuscirà a soddisfare tutta la domanda nei tempi giusti. Grazie, grazie a Luca Salvioli, grazie del Sole 24 Ore, e chiudiamo con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, perché ci avviciniamo al weekend. Pare che finalmente, Paolo, questa benedetta pioggia di cui tanto abbiamo bisogno arriverà. Ma sì, ce la dovrebbe fare. Buonasera Piera, buonasera a tutti. Ci siamo, forse l'autunno a novembre riesce a farsi vedere e sentire, quindi non tanto domani, che quando il tempo sarà ancora bene o male bello in tutta Italia con solo un po' di nuvole al nord, quanto domenica giornata di piogge al nord, ma piogge anche su parte delle regioni centrali, Toscana, Lazio, Sardegna. La Sardegna è una gran sete, e poi la stessa perturbazione tra lunedì e martedì interesserà anche il centro-sud, quindi insomma ce n'è un po' per tutta Italia. Abbiamo un gran bisogno di pioggia, non risolverà tutti i problemi, però ben vengano queste piogge. E in ultimo torna addirittura anche la neve sulle Alpi, fino a 1200-1500 metri di quota. Insomma, un po' di autunno si fa sentire adesso, finalmente. Grazie, grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, grazie in redazione a Cristian Goldoni, in regia Valeria Bernardi. Un saluto da Maria Piera Ceci.